Buonasera, benvenute, benvenute a questa nuova trasmissione di Maite FM. Dopo un paio di settimane di pausa, torna in diretta. Abbiamo appena ripristinato lo streaming su radiokeros.it, ovviamente, la nuova puntata di Maite FM. Abbiamo detto, abbiamo fatto una piccola pausa di un paio di settimane e adesso riprendiamo con una novità più o meno assoluta. Maite FM cerca sempre nuove ispirazioni e lo fa anche un po' rivolgendosi alla stampa specializzata, ovviamente, perché non possiamo sempre sapere tutto, essere prescienti, e quindi siamo andate a vedere le reviews delle nuove uscite di Pitchfork, sito che noi amiamo ed odiamo, e abbiamo scoperto Porches, che si scriverebbe in maiuscolo seguito da un punto della serie porticati, verande, punto così. E questo nuovo album si chiama Pool, piscina, elemento acquatico sempre molto presente, a partire dal primo pezzo di apertura che adesso stiamo già sentendo, che non a caso si chiama Underwater, sott'acqua. Ascoltando Underwater, sott'acqua, primo pezzo di Pool, piscina, di Porches, pseudonimo sotto il quale registra, ma non l'unico della sua carriera, diciamo il progetto principale, del giovane ancora 27enne newyorkese, New York State, nato in una cittadina dal nome Pleasantville, sembra appunto tipo da telefilm, ma che negli ultimi anni si è trasferito nel cuore della grande mela Manhattan, e da Manhattan si lascia molto influenzare. E questo progetto nasce fondamentalmente nel 2010-2011, quando il giovane Aaron, detto anche Ronald o Ronnie, Fin da piccolo aveva cominciato a suonare, da molto piccolo aveva iniziato a suonare la tromba e poi si era dedicato alla chitarra. Era ossessionato dall'avere delle band, da suonare in una band, e infatti ha iniziato con un gruppo che poi ha cambiato nome, poi sono andati in tour e dopo praticamente non c'era più questo gruppo. Si chiamavano gli Aaron Main and the Riley Brothers, che poi erano diventati Space Ghost Cowboys, e dopo appunto questo tour nel 2010, come se questo gruppo si fosse magicamente dissolto, e nell'estate del 2010 Aaron comincia a comporre un po' di musica con le tastiere. Gli piaceva quello che veniva fuori e pensava che appunto potesse essere l'inizio di un nuovo percorso musicale, una nuova identità, e quindi con il nome di Porches, punto, comincia a pubblicare questi EP autoprodotti e li comincia a pubblicare nel suo Bandcamp, e il primo nel gennaio 2011 è appunto Summer of 10, l'estate del 10, da cui stiamo ascoltando Airport Terminal. Fin dall'inizio si mostra molto prolifico Aaron Main, tanto che pubblica sul Bandcamp tre EP, il primo questo Summer of 10 di 5 tracce, seguito da Je T'aime di 7 tracce, e poi praticamente un album, Scrap and Love Songs Revisited, sempre nel novembre del 2011. Insomma, un rock folk un po' sgangherato, un po' lo-fi, abbastanza tradizionale e prevedibile, a volte appunto sentendo tutto quello che ha fatto più o meno influenzato dalle tastiere, più o meno con delle ritmiche un po' bossa nova, un po' begin, come il tasto dell'organo Bontempi che ti dava la ritmica. Ma noi parliamo invece del secondo lavoro ufficiale, diciamo, e il primo pubblicato per la Domino Records niente meno il 5 febbraio scorso, ovvero Pool, e questo è il secondo pezzo, che si chiama Braid, che già da queste note e questa ritmica dimostra come il passo avanti compiuto da Aaron sia verso una musica più ballabile, più pop, influenzata molto dalla house, dalla R&B. E in questo pezzo, in particolare nei pezzi più mossi, io ravviso molti suoni tipo alla Caribou, e questo è Braid. Treccia, forse perché la sua ragazza spesso ha la treccia. Dark. ne dicono molte recensioni, come se in questo secondo album Aaron abbia trovato un po' la sua voce, come si dice, e un'altra voce che lo accompagna invece spesso, l'ho già prenominata, la sua compagna, la sua fidanzata, anche membro della sua band fino a poco tempo fa, suonavano uno nella band dell'altro con dei vari pseudonimi, che poi il suo pseudonimo è appunto il suo nome d'arte di quello che fa da solo, ovvero Frankie Cosmos, ma ne parleremo molto più in là. E adesso ci sentiamo un altro pezzo di un'altra band che si chiama Level Up. Questo è un pezzo contenuto in uno split 7 pollici che hanno fatto insieme Porches e Level Up nel 2013. Questo pezzo si chiama Bad Blood. Come esiste Pleasantville, nello stato di New York, esiste anche un paese che si chiama Purchase, acquisto, da cui vengono appunto i Level Up, che hanno fatto questo split EP insieme ai nostri, ovvero al nostro Purchase, che come dicevo ha pubblicato diversi EP, tutti nel 2011, secondo dei quali si chiamava Je t'aime. Come dicevo, si sentivano già delle ritmiche, quelle che si, le ritmiche che ti dava gli organi che avevamo da piccolo, almeno io avevo un organo Bontempi dove c'erano appunto tutti i vari ritmi che potevano accompagnare la musica suonata, ma ho scelto, e appunto più di questi ritmi se ne sentono in questo Je t'aime, questo secondo EP, ma io appunto ho deciso di fare sentire una ballata, anche questa molto molto molto classica, che si chiama Dirty Clean. Bruised hip and the floral jumper, and what I'd give to be that bruise. Maybe I'm just getting used. I'm used to it, used to it, used to it. And I am dirty, I am clean, and I can't hold on to anything. I am dirty, I am clean, and I can't hold on to anything. Anything, anything, anything. Beneath the waist it's dripping wet. Above his knees it gets hard again. And I still taste you on my tongue, wishing we were 1 year younger. Younger, younger, younger. And if I had a daughter, well, I don't. dad on his birthday or when he got sad. Make her smile, make her smile. And I am dirty, I am clean, and I can't hold on to anything. I am dirty, I am clean, and I can't hold on to anything. Anything. Dirty Clean, tratto da Jetem, secondo EP pubblicato da Iron Man con lo pseudonimo di Orchis. Un pezzo molto classico, una ballata molto bella che fa apprezzare la sua voce molto chiara, molto cristallina. Ma stiamo ascoltando invece Pool, il nuovo disco uscito il 5 febbraio scorso e il secondo video pubblicato, diffuso, secondo singolo all'inizio dell'anno. È questa Be Apart, che viene sempre un po' nominata come manifesto del disco, accompagnata da un video in cui ci sono lui e la sua band, composta di altri quattro membri, di cui purtroppo non sappiamo i nomi, che niente, vestiti come i migliori esistenzialisti francesi, tutti di nero, con la maglia a girocollo, si annoiano, insomma, non sanno cosa fare dentro questa casa molto pacchiana, molto kitsch, molto lussuosa, ma molto noiosa. Giocano a ping pong, saltano sui letti, giocano a basket, tra l'altro il pallone da basket è una presenza visiva, un'immagine, l'immagine principale, insomma, di questo lavoro, perché appare nella copertina, appare nella foto di copertina della loro pagina Facebook. E insomma, alla fine questa palla da baseball finisce anche in un bagno di schiuma, ma si annoiano e lui canta. Voglio starmene per conto mio, ma anche voglio essere parte. Per questo che abbiamo scritto la nostra presentazione. In questo disco oscilla tra vorrei far parte di un tutto, ma vorrei anche stare per conto mio. Per questo anche questa immagine della piscina, che ti permette di separarti, anche se vai sott'acqua, non senti, non vedi, però comunque sei vicino agli altri, c'è una sensazione di prossimità, non di isolamento totale, e anche se vuoi scegli la profondità di sicurezza che non ti mette poi così tanto in pericolo. Pezzo si chiude con questa lunga nota un po' sinistra, perché come hanno scritto in molti, sì, questo pop orecchiabile, carino, che ti fa un po' ballicchiare, però c'è sempre qualche nota un po' stonata, c'è sempre un po' di synth un po' distorto. I pezzi finiscono sempre con questa vaga sensazione di minaccia, per questo abbiamo anche definito l'eleganza un po' minacciosa. Ma abbiamo pre-nominato Frankie Cosmos, ragazza di Iron Maiden, da 4 anni vivono insieme a Manhattan. Lei è super super prolifica, ha iniziato a fare musica da giovane perché aveva un computer e tanto tempo libero, soprattutto si rifugiava nella musica per procrastinare i compiti, non voleva fare i compiti, quindi faceva musica, ha fatto tantissima musica e fino appunto ad incidere un album vero e proprio, Zentropy, nella stessa etichetta dei Level Up, tra l'altro, Double Double Whammy, e poi anche a suonare il basso nei Porches, così come Iron Maiden suona tempo suonava la batteria nella live band di Frankie Cosmos, dove lo pseudonimo di Aaron diventa Ronnie Mystery. Questa era Young di Frankie Cosmos, contenuta nell'EP del 2015 Fit Me In. Ha fatto finire anche questa canzone nella posizione 96-97 delle migliori canzoni per Pitchfork, ma noi parliamo di Porches e questo è un collage. Dicevo, un collage dei tre pezzi che mi sono piaciuti di più di Slow Dance in the Cosmos, quello considerato il long plane di debutto ufficiale del 2013, che l'ha fatto notare, adesso infatti incide per la Domino Records, che si apriva con Heads Giving, un gioco di parole tra Thanksgiving e Giving Head, che significa insomma fornire, fare sesso orale a qualcuno, seguito poi da Fog Dog e da The Cosmos, appunto ritorno a questo Cosmos, Frankie Cosmos, Slow Dance in the Cosmos, per un disco che vede già un cambio stilistico sostanziale, già un disco più articolato, un po' twee, un po' indie, come quell'indie che ci piaceva tanto d'inizio secolo. A me ricorda tante cose, non riuscivo molto a ricordarmi, un po' Jack Drag, un po' appunto l'indie di inizio secolo americano. Le canzoni sono meno prevedibili, sono più interessanti, e poi c'è l'apporto fondamentale di Frankie Cosmos, ovvero Greta Klein, ovvero la fidanzata di Aaron, che anche in questo ultimo disco compare. Prima appunto dicevo suonava il basso e cantava, adesso non suonano più sempre insieme, perché già insomma vivendo insieme, andando in tour insieme, facendo musica insieme, magari era un po' troppo. Ma in questo album permane ancora la sua partecipazione e collaborazione come musicista e anche come vocalist. Siamo tornati al suono un po' raffinato, un po' dalla soft rock anni 80 radiofonico dell'ultimo album Pool, e questo è Mood. Questa canzone, cioè, non voglio stare qui, voglio andarmene, però rimango qui in giro aspettando di sentire le novità. E andando a sbirciare appunto sulla sua pagina Facebook, perché oltre a Bandcamp non ha un sito vero e proprio, ho trovato insomma questo video postato di questa band che si chiama Girlpool. Quindi se un artista posta un video sulla sua pagina, devo supporre che siano amici o collaboratori o comunque un'ispirazione di qualche tipo. Ed infatti questo gruppo femminile, che incide per la Wichita Records adesso, è appena fatto un album, insomma nel 2015, e questo è il singolo Chinatown. Before the World Was Big è l'album che contiene questo pezzo, trio molto base, voce e chitarra, voce basso e senza batterista, un suono che è stato paragonato a quello di Kimia Dawson, e torniamo ancora alla fine degli anni 90. Poi c'è vagamente da notare che si chiamano Girl Pool, questo elemento, la piscina, l'acqua, underwater, ritorna in tutto l'album di cui stiamo parlando oggi, che è il nuovo album di Porches, pseudonimo di Aaron Main, Ronnie per gli amici, ma il primo video singolo in cui compare, canta, suona e compare anche nel video Greta Klein, ovvero Frankie Cosmos, uscito nel 19 novembre del 2015, anticipatore dell'album è questa Hour. Ascoltando questo intermezzo, no, si ritrova catapultato un po' all'indietro nel tempo. Questa canzone Hour, che appunto parla, riporta un po' tutti i temi contenuti in Pool, l'essere distaccati, solitari, la piscina viene addirittura nominata, la swimming pool. Si dice che Aaron Main non è mai stato un gran paroliere, nel senso che non è che ci comunica verità profondissime o massimi sistemi, tutto molto personale, ma molto semplice, molto diretto. E anche in questo nuovo album, dove c'è una sofisticatezza maggiore, perché appunto lui racconta, ha scoperto il computer, ha scoperto Logic Pro, ha scoperto l'autotune, però l'ho fatto tutto nella sua cameretta, che poi non è la sua cameretta ma è il salotto della casa che appunto condivide con Greta Klein, ma lo fa appunto in modo molto da autodidatta, molto imperfetto, e anche le cose di cui parla sono molto molto personali e molto anche influenzate, come anche in passato, dell'uso di sostanze. Infatti dice My Stoned Hour, anche un altro pezzo che parla di erba, e molto molto personali. Ma adesso siamo arrivati a parlare di un altro suo alter ego, che dice, che si chiama Ronald Paris, non Ronald Paris, ma Ronald Paris, che è un'altra parte di sé, di cui lui dice: Ronald Paris è tuo amico, canta le canzoni che ti piacciono. E ha fatto capolino vero e proprio in un EP, in uno split EP per la Seagreen Records, uscito nel maggio del 2014, che conteneva tre pezzi per Ronald Paris e tre pezzi per un altro artista che ascolteremo tra poco, e questa è Protect. Thank you. questo breve pezzo strumentale di Ronald Paris, che lui, Aaron, definisce un suo alter ego a sé stante, separato da Porches, ma non troppo, sempre a distanza di sicurezza, come dicevo, questo desiderio di essere apart, ma essere a part. E con chi aveva diviso questo EP? Con un musicista africano, Mdou Mokhtar. E questo qui era uno dei pezzi che conteneva, si chiama Asset Akal, si è contenuto nell'album di Mdou Mokhtar del 2014, Anar, che è appunto in questo split EP con Ronald Paris. Mdou Mokhtar è un cantautore musicista Tuareg di base Agadez in Niger, e che Aaron Main non disdegni la musica africana contemporanea, lo dimostra ancora un post fatto giusto ieri sulla sua pagina Facebook di Love Boy Makula, pezzo appunto, la stessa matrice musicale culturale. E questa era Asset Akal di Mdou Mokhtar, ma noi andiamo avanti parlando di Pool e passiamo a questa Even the Shadow, che qui queste sonorità synth molto patinate. D'altra parte anche lui ama molto cosa è patinato, un amante di arte, di riviste, di fotografia. Si occupa spesso dell'artwork delle sue opere, dei suoi album, anche Slow Dance in the Cosmos era un suo quadro. In questo caso un'immagine che sembra una rielaborazione del Giudizio Universale della Cappella Sistina di Michelangelo, cioè un dito, però è una palla da basket, ma in realtà lui dice che era una foto fatta al suo amico, fatta a lui, che però lui ha rielaborato, ha fatto il layout, ha fatto la scritta, insomma ha fatto tutto lui. E questa sua passione per l'estetica viene dichiarata anche dicendo di come New York lo influenzi, di come stare in mezzo ad una città che è all'avanguardia per tutto ciò che è immagine, moda, e che mischia tutto quanto, gli piace molto, è molto sensibile a tutto ciò che è moda, che è hairstyles, vestiti, influenze di tutti i tipi. E poi si può vedere poi anche un molto bel ragazzo, infatti in un'intervista di Interview Magazine hanno fatto proprio un servizio di moda, si presta molto. Però fortunatamente non è solo un piacione, ma fa anche della bella musica. diciamo che coincide perfettamente col modello di hipster. Sta già finendo Even the Shadow, tutti pezzi molto brevi, per questo progresso dichiarato già da tempo di fare un pop semplice, ordinato, un suono pulito, compatto, però incisivo, dove c'è ogni strumento che fa la sua parte, né più né meno. Un approccio insomma abbastanza minimale, un amore dichiarato per la musica anni 80, però con il desiderio di evitare un semplice revival, come se ne sentono molti in giro. E poi è stato, come dicevo, influenzato dalla house, dalla disco, e il suo desiderio appunto di fare una nuova versione di musica influenzata da questi stili, però una nuova versione che sia unica e fresca. E in mezzo, prima di questo album, e già si può capire la direzione che era già stata intrapresa, sempre nel 2014, in settembre, esce fuori un 7 pollici per la Terrible Records. Ancora ci giriamo intorno all'etichetta di Chris Taylor, uno dei due soci che abbiamo già nominato per Empress Off e per il progetto solista della cantante, della voce dei Chairlift. Questo 7 pollici si chiama Roland Paris House e non si sa se nel senso di casa o nel senso di musica, di ritmica. Questo primo pezzo è Prism, seguito poi da Forgive, dove viene dichiarata la presenza alla voce di Greta Klein, ancora lei, Frankie Cosmos. Forgive featuring Greta Klein, Frankie e Ronnie, loro alter ego con cui si chiamano scherzosamente e che appunto impedisce loro di essere troppo legati alla loro vera personalità. Come dice Greta Klein, dice: quando salgo sul palco posso essere Frankie Cosmos, sì sono io, però ho quest'altra personalità. Anche perché insomma la sua personalità non è una qualsiasi, adesso non per fare name dropping, però Greta Klein è la figlia di Kevin Klein e Phoebe Cates, coppia nata a Hollywood negli anni 80, coppia ancora felicemente sposata, ha un fratello maggiore che ha cominciato a portarla ai concerti quando aveva una decina d'anni e si è appassionata appunto alla musica. e insomma scoprire che avere questi due bei genitori che soprattutto ancora stanno insieme. Questa che stiamo ascoltando è Sinister, sempre il suo stile twee pop molto carino, che è un'anticipazione del nuovo album che uscirà quest'anno e si chiama Next Thing e esce il 1 aprile. Sempre pezzi molto molto brevi, molto molto carini. Ci abbiamo parlato sopra, ma come dico sempre, insomma, noi se facciamo sentire dei dischi, dei pezzi, dei dischi, ci parliamo sopra, diamo informazioni, ma perché poi ci auguriamo che se uno ha gradito poi se lo va a ascoltare in santa pace. E noi stiamo parlando di Pool e siamo arrivati alla title track. When it's around about to, it's suggest the pool. Oh, how I could just see it now, your body as it comes down in slow. Aaron usa il vocoder, l'autotune in questa canzone Piscina, dove si ripete slow motion, perché uno dei temi che appunto lui non è un... Ah, eccolo la dance floor un po', direi più Daphne che Caribou, qui si sente il tocco africano. Insomma, appunto, non parla di massimi sistemi, si concentra su pochi temi questo disco e vengono comunicati in modo chiaro e diretto. E uno di questi concetti, come abbiamo scritto, è la lentezza, un altro è l'acqua e un altro è l'attesa, la pazienza. Per questi racconti molto brevi di esistenzialismo urbano, potremmo chiamarlo. E questi spunti dance che fanno capolino nell'intervista citata prima di Interview Magazine, faceva una dichiarazione molto molto esplicita di quanto gli piace la musica dance e quanto vorrebbe fare solo musica dance, fare 200 CD di musica dance da registrare ai suoi amici, ma siccome il riferimento spesso è quello al soft rock, detto anche in modo un po' scherzoso yacht rock, cioè questa musica molto smooth, molto pacifica, che la gente più o meno ricca che ha una barca può ascoltare, nei suoi viaggi. Sono felicissima che mi sia stata data quindi l'occasione di mettere uno dei nomi e una delle canzoni spessissimo nominate, una canzone che per me è no fondamentale di più. Quale miglior manifesto di quello stile musicale che andava molto tra il 75 e l'84, grosso modo, di Sailing di Christopher Cross, 1979, praticamente 80. Io di questo pezzo possiedo il mio bel 45 giri rosa viola dove c'era un fenicottero e che all'età di 9 anni mi faceva sentire questo senso di profondo struggimento, di anelito, di nostalgia del futuro che poi non mi ha mai abbandonato, che ho capito poi corrisponde anche molto al concetto di saudade, che non è solo nostalgia del passato, ma appunto desiderio di qualcosa che questa sonorità così precise, così felpate, così carezzevoli che spesso si sentono anche nell'album di Porches. Ecco, cioè questo incipit sembra provenire direttamente da Hole Oates, si chiama Glow. Io amavo tantissimo Hole Oates, ho anche una raccolta di grandi successi, 1984, edito da Sigla 4. Hey. Finisce sempre con questa nota un po' cupa, un po' stonata, questa canzoncina Glow che parla di una relazione forse in pericolo, forse finita, di litigi, di fine di relazioni. Invece speriamo che quella tra Aaron e Greta vada avanti. L'influenza spesso dichiarata, e prima ancora di leggere ne ho avuto prova da un post sempre di Facebook dei giorni scorsi, dove Aaron ha postato questo pezzo di Blood Orange, ovvero di Devonti Hines, ovvero l'ex Lightspeed Champion. Si chiama As Cooled, viene dal disco di qualche anno fa che si chiamava Coastal Grooves 2011. Ha postato questa canzone dicendo tipo all time favorite, e infatti ho letto poi che è stato molto influenzato da Blood Orange, dal suo lavoro di scrittura, dal suo lavoro di produzione, e direi che la lezione l'ha imparata bene, perché anche insomma con il fatto di essere un po' autodidatta e di non aver prodotto un risultato assolutamente impeccabile, è proprio la passione e l'onestà, insomma la sincerità, che ci piace molto di Pool. È Schooled di Blood Orange, un modello per Aaron Main. Come dicevo, l'onestà, la sincerità, lui vuole fare musica, lui ha iniziato a avere dei gruppi perché voleva suonare, voleva farlo senza sapere necessariamente farlo, almeno all'inizio, e anche con questi nuovi strumenti si sta mettendo molto molto alla prova. È un altro pezzo che viene spesso spesso nominato nelle recensioni, che comunque, diciamolo, ha ottenuto un dignitoso 7.1 di media in Metacritic, dove il top stavolta è proprio Pitchfork con 8.3, e questo pezzo si chiama Car. nelle varie recensioni che ho letto si dice anche che, mantenendo comunque un po' di note a volte stonate, a volte un po' minacciose e cupe, si dice che non è proprio quell'easy listening che si potrebbe sentire nella sala d'attesa di un dentista. Noi apprezziamo molto la sincerità, l'onestà, la semplicità di questo ragazzotto che dice che non usa il suo nome perché vorrebbe proiettare nello pseudonimo, in quello che fa sotto il suo pseudonimo, un sé ideale. E spesso invece nella delivery, insomma, nel come pronuncia le parole, un po' a volte nella staticità del suo cantato, viene spesso fatto un paragone con Devon Welch, che abbiamo imparato molto bene a conoscere in una delle ultime puntate di Mighty FM, ovvero Magical Clouds. E in quella puntata avevamo detto spesso di come i primi pezzi fatti per il nuovo disco fossero stati buttati via nel cestino, avessero ricominciato a fare tutto da capo dopo un'esperienza di tour con Lord che aveva molto influenzato, insomma, non proprio musicalmente, ma insomma in modo ampio come visione, come costruzione della musica. Ma ovviamente, perché buttare via delle canzoni se comunque ci sono e le hai fatte? E ecco che puntualmente all'inizio del 2016 è uscito fuori questo Wait and See EP, che contiene appunto alcuni dei pezzi, 5-6 pezzi, che non sono entrati nell'album Are You Alone. E il primo è proprio questo Wait and See, con la E commerciale, non Wait and See come l'EP, che è quello che più comunque assomiglia allo stile, che non avrebbe sfigurato anche all'interno dell'album, mentre diciamo che in effetti a paragone gli altri pezzi dell'EP non ci convincono molto. Magical Clouds. Coincidenza, ha appena detto I'm in the water now. I'm leaking water now. You'll take pictures of it. If I try to be brave, will you try to be kind? Se quello che ho letto dice che spesso, però la differenza è che mentre Devon Welch vuole sinceramente raggiungere l'altro, a questo portato emotivo molto forte ma molto controllato nella voce, invece Aaron rimane sempre un po' distaccato, un po' piatto forse. A noi ci piace, sembra che la voce si adatti benissimo a questo nuovo stile che ha voluto percorrere. E siamo arrivati quasi alla fine di questo disco. Non so se avete notato che l'abbiamo ascoltato. Lo stiamo ascoltando tutto. Questo è Shaver. Oh, vabbè, anche questo come soft rock AM radio. Anche questa canzone è semplicissima. Rendo la mia faccia liscia per te, Shaver. Ed è bello leggere le considerazioni che fanno Greta e Aaron sul loro essere insieme e sul loro essere musicisti, e di come anche avere queste alter ego musicali permette comunque di mantenere una libertà assoluta in quello di cui si vuole parlare. E anche perché poi se tu nella tua testa parli con uno pseudonimo, non tutto quello di cui scrivi è strettamente autobiografico. Anche una cosa che mi ha fatto molto ridere che ha detto Greta Klein è che le dà un po' fastidio il fatto che tutti vogliono andare a letto col suo fidanzato. Beh, anche il sax è assolutamente un salto nel passato. Perché sì, Aaron, come abbiamo detto, è un gran bel pezzo di ragazzotto, forse appunto più nella versione sbarbata, appunto Shaver, che nella versione baffuta, come spesso compare nelle foto, foto patinate, foto di pubblicità, riviste, Instagram. Matisse e Hockney sono le sue passioni artistiche. Ma cosa stiamo sentendo? Stiamo sentendo Trevor Powers, ovvero Youth Lagoon. Domani sera lo vedremo live al Covo per quest'ultimo episodio del suo progetto come Youth Lagoon, arrivato al terzo album. Dedicammo una delle prime puntate, insomma delle prime stagioni di Might FM a The Year of Hibernation, il suo debutto, seguito poi da Wondrous Bug Out, adesso da Savage Hills Park Ballrooms. E non avrei pensato di metterlo in scaletta all'inizio, poi ho pensato, beh vabbè, suona domani e poi viene nominato in una delle recensioni che ho letto, e quindi free me. Recensione che parlava di Youth Lagoon era quella di Absolute Punk, che ha dato un 7.8 a Pool. Dicendo che è un album che è isolato, ma non necessariamente solitario, è elettronico, ma non in un modo che tu puoi sfogare ballando tutta la tua frustrazione. È assolutamente millennial dal punto di vista generazionale, ha 27 anni adesso Aaron, ma non in un modo che ti, insomma, che ti dà noia, che ti dà fastidio. Aaron Maine è il tipo del frontman che è allo stesso tempo sicuro di sé e incerto, insicuro riguardo a quello che sta facendo davanti al microfono. E qui arriva il paragone dicendo, si può dire questo anche di altri artisti come Youth Lagoon. Porches occupa uno spazio nella musica elettronica che è costruito in modo così delicato e precario che rischia di, insomma, cadere a pezzi ad ogni momento. E questo è Free Me di Youth Lagoon, che vedremo domani. Ha dichiarato che il progetto Youth Lagoon finisce. Trevor Powers potrebbe anche usare il suo nome da, che sembra un pseudonimo, un nome da supereroe. Ma noi andiamo avanti e siamo in chiusura di trasmissione, e lo facciamo con gli ultimi due pezzi che chiudono l'album, ovvero Shape e Security, che è un po', diciamo, la dichiarazione finale. Quello che cerca alla fine è tranquillità, sicurezza, conforto, come tutti. Questa canzone sembrerebbe che parli di sesso abbastanza fantasioso fatto sotto l'influenza di qualche sostanza psicotropa. Disco introspettivo per serate in solitudine, come dicevo, le recensioni abbastanza favorevole, ce ne sono un paio che scendono sotto la sufficienza, tanti 6, Mojo di Hawaii Magazine, Now Magazine, poi c'è The Line of Best Fits e mezzo, una sfilza di 7 con Uncut, All Good Music, OMH, Rolling Stone, fino ad arrivare a Absolute Punk che abbiamo citato, Spin e Exclaim 8. Leggendo qua e là, Aaron Maine non è, insomma, diciamo che i testi non sono proprio il suo forte, ma il suo istinto melodico riempie il gap tra intenzione e risultato, e qui parte. Comunque si sente un po' sfasati, Security. Dark pop a tinte new wave, e prendendo spunto dal suo Facebook. Un po' uno lo vede come scrive, quello che scrive è un po' cazzone, ma... Genere Dark Muscle, breve descrizione, World Dark Muscle, New York. E io ho interpretato personalmente, probabilmente sbagliando, però mi suonava bene, questo Dark Muscle l'ho interpretato come il cuore, insomma, molto semplicemente. Testi introspettivi adatti a un film, eleganti synth anni 80 con tocchi disco house, una fusione non convenzionale però che dà un senso di bliss, non so, beatitudine. Spin parla di come appunto la chiusura di The Cosmos dell'album precedente, dove lui appunto dichiara "I wanna go dancing in the public eye", ad appunto dichiarato già questa nuova identità che vuole assumere, questa passione più per la musica dance. Però c'è anche chi dice, come Consequence of Sound, che è un disco molto piacevole ma non è troppo emozionante o memorabile, e anche chi dice, beh sì vabbè, adesso già non vediamo l'ora di sentire quello che viene dopo. A noi ci piacerebbe magari anche vederlo dal vivo, abbiamo visto diversi video dal vivo, anche se lui ha dichiarato che andare in tour è una cosa che non gli piace assolutamente, lo vede come una fatica perché comunque non lo vede come una cosa creativa, a differenza di tanti artisti che invece in tour scrivono e compongono e provano, lui lo vede forse come una perdita di tempo, chissà, però ha detto che verrà in Europa e magari... un salutino glielo facciamo. Beh, un disco piacevole da ascoltare e riascoltare, una bella scoperta, musica nuova a Radio Kairos, musica nuova Might FM. Ci sentiamo alla prossima puntata, siamo in chiusura, chi vi ha parlato ancora una volta è Claudia Mighty Mau, mightyfm.blogspot.it, buona serata.